Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Rosita, guardami negli occhi. Ora stai attenta. Queste sono tre fette biscottate. Questa l'ho fatta io. Queste due, no. Ora dimmi. Qual è la mia? Oh, Rosita, mi hai beccato. Molti si stanno interrogando su questa straordinaria e intensa deriva sentimentale di Antonio Banderas, che si vede teneramente avvinto in una sua lunga e seriale sequela di spot televisivi alla gallina Rosita. Antonio Banderas, ormai è noto in una più che nota pubblicità, è un fornaio, un mugnaio anzi, vive in un mulino. L'ex Zorro, l'ex eroe dalla spada affilatissima, ma l'ex anche personaggio, almeno così all'inizio della sua carriera, della saga dei film di Pedro Almodóvar, in cui rappresentava a volte una ambigua sessualità, ambigua nel senso che non era molto certa, a volte si era uno strampalato e stralunato protagonista di vicende legate a altre donne. In questo caso però è stato preso di mira nel suo rapporto con la gallina Rosita. La gallina Rosita l'avete vista, è questa simpatica gallinella che si innamora del galletto, che fa le uova, perché tutte le uova dei biscotti inzupposi di Banderas vengono fatte con galline allevate a terra. Però qualcuno pare che abbia segnalato a un'associazione in difesa degli animali e dell'ambiente che i movimenti della gallina Rosita sarebbero stati incerti, stereotipati, non certo legati a una perfetta salute. E quindi cominciò a sorgere il sospetto in rete, poi vedremo di verificare questa vicenda perché merita approfondimento, che la gallina Rosita potesse essere drogata, dopata, per rimanere così buona, acchiocciata, tranquilla, fare quando Banderas le sussurra delle frasi d'amore a un centimetro dal suo becco, non può essere che dopata, sennò altrimenti sarebbe fuggita via. Altri addirittura hanno insinuato che quella immobilità innaturale per una gallina ruspante, quindi deve muoversi perché deve ruspare il terreno, perché sennò non sarebbe ruspante, erano derivati dal fatto che la gallina Rosita avrebbe avuto le zampette legate, imprigionate. Beh, questo naturalmente è stato segnalato a un'associazione di difesa degli animali, l'associazione ha protestato, ha fatto, almeno questo leggo nella cronaca in rete, ha fatto delle sue mail di protesta, un post in cui dice che gli animali non vanno maltrattati per spot pubblicitari, mi sembra lecito. Dopodiché il grande colpo che avrà senz'altro inflitto una profonda e insanabile senso di smarrimento nei fan della gallina Rosita. Guardate, la gallina Rosita ha dei profili Facebook dedicati a lei, in cui si favoleggia la gallina Rosita, si favoleggia un suo disperato amore per Banderas, si dà a lei una personalità. Insomma, la gallina Rosita è un personaggio a tutti gli effetti e probabilmente anche perché è protagonista di una pubblicità martellante. Beh, la verità è che la gallina Rosita in realtà altro non è che un automa. Un giornale ha mostrato, La Stampa di Torino, la foto che svela, ahimè, la tristissima notizia, ma allo stesso tempo allegra per chi pensava fosse un animale maltrattato, che da dietro le zampe, la cloaca della gallina, esce fuori un cavo, un connettore, che è quello che dà i movimenti a quel robottino gallinesco, che naturalmente ha dei movimenti un po' frastornati rispetto a quelli di una normale gallina. Beh, voi come la pensate? Ve la siete presa a cuore per la gallina Rosita? Siete delusi nel pensare che la gallina Rosita, frutto delle vostre passioni e della vostra illusione di una storia d'amore, sia in realtà un robot? 800240024. Rosita, ma chi è questa? La tua bisnonna? In effetti mi assomigliate un sacco. Pensa come sarebbe felice di sapere che non sei in gabbia. Proprio come era lei. Notate che tutto l'insistere di chi ha scritto, dei copywriter della pubblicità della Barilla, è sul fatto che Rosita viva felice, non sia un pollo da fattura di uova imprigionato in quelle gabbie terribili che sono dei veri e propri lager. Quindi Rosita va, razzola, passeggia attorno al mulino, dorme accanto a Banderas, si fa la doccia nell'idromassaggio insieme a Banderas, e per questo fa delle perfette uova e lui fa dei bei biscotti inzupposi. Però a questo punto sappiamo che Rosita non c'è, non esiste, è un simulacro di gallina, rappresenta la gallina libera, è paradosso che l'unica gallina libera rappresentabile sia in realtà un robot. Beh, su questo vorrei sentire quello che è stato il protagonista indiretto di tutta questa vicenda, che è Lorenzo Croce. Lorenzo Croce, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Hanno un po' scherzato sul fatto che voi avete difeso un automa, ma in realtà come stanno le cose dal suo punto di vista? Allora, abbiamo sbagliato perché abbiamo scritto una stupidaggine, questo va riconosciuto. Voi non lo sapevate però. Facciamo un po' di passi indietro. Questa vicenda intanto io non ho ancora capito perché è uscita oggi, perché il nostro comunicato e la telefonata pesante dell'ufficio stampa della Barilla risale al 28 di gennaio. Noi il 29 di gennaio, il 30, abbiamo tolto il post, abbiamo chiesto scusa e per noi la cosa era finita lì. Io domenica mattina, quando ho visto questo articolo della dottoressa Ferrigno, della stampa, sono rimasto francamente un po' basito. Abbiamo infranto il muro del silenzio, era sin troppo tempo che non si parlava di questa vicenda, è giusto sia venuta alla luce e la gente sappia che la gallina Rosita è un automa. Il problema è che quell'articolo contiene anche delle verità che ci hanno fatto... Ma lei chi aveva... andiamo per ordine, qualcuno vi segnala che la gallina Rosita potrebbe essere stata dopata, che mi sembra una cosa grave se così fosse. Allora, la segnalazione è di inizio gennaio. Io, siccome non guardo la televisione, ho preso per buona perché la segnalazione arrivava da una delle mie vicepresidenti, quindi... Ma sì, un po' fatta sembrava la gallina, se non sapeva che si muoveva un po' strana. Esatto. Noi usciamo con questo comunicato, poco dopo... E il comunicato cosa diceva? Nessuno tocchi la gallina Rosita? Il comunicato diceva... che stiamo verificando se questa gallina effettivamente potrebbe essere dopata, e quindi però noi puntavamo soprattutto, come al solito, sul discorso delle uova. Fatto il comunicato, vi dico proprio com'è andata: mi ha chiamato dall'ANSA una giornalista collega amica che mi ha detto: Lorenzo, guarda che è una puttanata perché la gallina è un robot. A che a quel punto, dopo stretto giro posta, noi abbiamo ritirato il comunicato. È finita per voi, finita, certo. No, non è finita, è arrivata la Barilla che c'è giustamente incassata, abbiamo chiesto scusa per quel tipo di errore lì, ma abbiamo anche sottolineato subito che il discorso degli allevamenti intensivi a terra, così come viene presentato anche dall'articolo di domenica, è ridicolo, perché 23 milioni di tonnellate di uova vuol dire che se fossero fatte tutte da galline a terra con lo spazio minimo vitale dovrebbe esserci un allevamento grande una volta in mezzo all'Italia. Voi dice Rosita magari sì, allevata a terra, ma le uova, vabbè, questo lo so, è un problema. Voi difendete giustamente gli animali che devono fare le uova a terra, ma si sa che i vecchi pollai, come erano negli anni 50, oggi non permettono di produrre tante uova quante ne servano per una produzione industriale, questo certo è chiaro. Però questo è un altro problema. A questo punto voi avete capito che la gallina Rosita non andava difesa, almeno nella fattispecie dell'animale star della televisione rappresentato. Esatto. Quindi è finita così per voi? Per noi è finita così, fino a che domenica ho visto questo articolo e ho cercato in qualche modo di tamponare la situazione chiamando il caporedattore del giornale che... Però una volta venuta a sapere che c'era stata questa querella, giustamente un giornalista ne scrive, e se la cosa era stata tenuta sotto, lo sappiamo, ci facciamo una risata, ma nessuno si è fatto male, ecco, ci abbiamo riso un po'. No, assolutamente, ma noi abbiamo... ma infatti, per l'amor di Dio, è stata presa con il giusto spirito, ci mancherebbe... Ma qualcuno diceva anche che erano legate le zampette alla gallina Rosita? Era l'alternativa alla drogata. Ma in realtà era quel cavo che esce da sotto la gallina, è il telecomando per farla muovere? Io la prima volta che vedo quel cavo, ho preso per buono quando mi è stato detto che è un robot, perché quando me lo dice l'ufficio stampa di una multinazionale, uno pensa che ti dica le cose come stanno. Ma adesso che uno li guarda col senno del poi, si vede che è finta la gallina. Fermiamoci un attimo su qualche ascoltatore. 800 24 0024. Giorgio. Salve, buongiorno. No, volevo dire, io sono un ipnotizzatore di galline. E come si ipnotizzano le galline? Ah, è un'arte assai complessa, molto difficile. Ma quella col gessetto che si mette il becco sul per terra, da piccolo, se lo dico adesso mi fa arrestare Lorenzo Croce. Noi ci provavamo da piccoli a ipnotizzare le galline. In realtà serviva per far divertire i bambini. I bambini oggi non si può dire queste cose, però dopo negli anni 50 questo ci avevano allevato male, non lo so. Tutti i giorni si mangiano bistecchine di pollo, di petto di pollo, e chissà da dove arrivano. In realtà la gallina, almeno parlo io di quando era ruspante, era già difficile prenderla, perché la gallina, nonostante ha le ali e si muove, anche perché aveva ormai nel suo DNA che quando qualcuno la prende per tirargli il collo, quindi scappa via. Sapeva che niente, bastava avere l'astuzia di prenderla per le due gambine, la si teneva in un mano, sbatteva un po' le ali. L'atto dell'ipnosi come avveniva? Assolutamente fermi, la gallina si sentiva, come io non dico forse tranquilla, ma vedeva che non si muoveva più niente e si bloccava. Era, come dire, forse un rigor mortis, non saprei cosa dire. Era una situazione in cui lei stessa si bloccava e bisognava... E come rimaneva? Ferma come? Seduta come? Ferma, ti guardava fissa negli occhi, restava ferma con le ali chiuse, tutto un po' raggomitolata. Quindi c'è l'ipotesi che si sarebbe potuto fare uno spot ipnotizzando la gallina. Infatti, allora, la gallina dello spot secondo me è assai innaturale, non vorrei sbagliarmi, ma sembra assai innaturale nei movimenti. Grazie, è un robot, è una macchina. È chiaro, quindi in realtà potevano chiamarmi per una modica cifra, gli avrei dato un risultato ampiamente... Fermo un attimo, Lorenzo Croce, sarebbe considerato un maltrattamento di animale ipnotizzare una gallina? Secondo me sì. È sicuramente una cosa naturale, però adesso non è contemplato dalla legge, mettiamola così. Quindi è un reato. Oggi se uno ipnotizzasse una gallina sarebbe passibile di una contravvenzione. Non è ipotizzato dalla legge al momento il reato di ipnosi di gallina, però sicuramente non è una cosa naturale. Beh, uno forza la natura della gallina. Era un gioco che si faceva da bambini quando eravamo cattivi negli anni 50. Lo so, io negli anni 60, quindi 60, io sono figlio di contadini, quindi e quindi si ricorda, mettiamo il becco per terra e sfacciamo col gessetto il segno, e la gallina stava ferma. Fermi un attimo, informazione del traffico, continuiamo perché il tema è scottante, vengono alla luce sempre dei nuovi elementi su questa vicenda che è rimasta oscura per mesi e finalmente la vediamo in tutta la sua limpida e essenziale verità. Tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai. E non vedi che ti appino, se voi mettete qualcos'altro, voi ci salvo, voi ci appino, appino, appino, c'è un saccoccio pieno, pieno, per te voi metteci dentro qualcos'altro, c'è qualsiasi cosa che io prenda, perché c'è un telefono, per te come lo guardi bene. Questo è un vero atto di amore tra una signora e la sua gallina, fatto per YouTube, una signora con la gallina Caterina in braccio e che coccola e vezzeggia la gallina. C'è una fetta di umanità e considera le galline come animali da compagnia, come se fossero gattini o cagnolini. Alcuni allevatori, da quanto mi scrivono su YouTube, vanno ancora oltre nella loro passione verso le galline, ma di questo oggi non vogliamo parlare, stiamo soltanto facendo chiarezza ulteriore sull'episodio della gallina Rosita, che era stata in un primo tempo considerata una gallina dopata o costretta o legata per sopportare il dialogo con Banderas, ma in realtà è un robot, è teleguidata. Sentiamo Massimo, buongiorno. Massimo che ci aveva con... Eccomi, ci siamo? No, sì o no? Vediamo un po' se riusciamo a parlare con Massimo. Si stanno rodando questi nuovi sistemi ipertecnologici per mettere le telefonate. Ecco. Massimo, c'è? No, allora Nicolò. Sì, Nicolò. Salve Nicoletti. Sì, eccomi. Sì, salve. Allora, volevo dire sì, a parte che io ho sempre trovato palese che la gallina fosse un automa perché ha un'espressività da gallina, voglio dire. Sì, chi ha visto le galline nella sua vita capiva che era finta, però assolutamente. Le galline, la maggior parte dell'umanità oggi le vede spelacchiate, spennate e dentro il cielo fanno al supermercato, quindi non sa come sono fatte. Assolutamente. Poi riguardo l'ipnosi, che aggiungerei perché il signore prima mi ha anticipato, anch'io mi interesso di ipnosi, anche se di ipnosi scenica, però effettivamente comunque a livello pratico ipnotizzare una gallina, lo stesso metodo si può fare anche con i leprotti, non servirebbe a livello scenico, soprattutto perché poi non c'è la figurazione come con l'essere umano. Rimane bloccata, è chiaro. Assolutamente, la figurazione è come, non so, quando dice lo spettatore tu sei un cane, poi anche lì è esagerato, sono finzioni illusionistiche, ma comunque sì, diciamo che ho sempre trovato palese che fosse un automa, quindi non ci sarei cascato io a questa cosa del doping, diciamo. Vabbè. E poi anche se droghi la gallina è chiaro che non si muove, cioè è ferma, è come in torpore, tutto qua. Va bene, questo è chiaro, chi conosce le galline sapeva esattamente che questo era un robot, però ritorniamo a parlare con Lorenzo Croce, che è presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. La vicenda della gallina Rosita mi sembra conclusa, abbiamo dato l'ultimo chiarimento, mi sembra più che palese che lì non c'è sofferenza, ma spesso capita che nelle pubblicità voi individuate degli animali maltrattati. Mi stanno scrivendo ad esempio a proposito di mucche, io non ho visto mucche in pubblicità, ricordo ancora la mucca Carolina che era di plastica, ma avete individuato dei casi simili di maltrattamenti o disattenzione nei confronti degli animali negli spot pubblicitari? Più che negli spot pubblicitari ci sono fior fior di segnalazioni, fior fior di iniziative, anche una nostra proprio recente presso l'Unione Europea per quanto riguarda invece l'utilizzo degli animali nei film, perlomeno non di tutti gli animali, perché oggi le cose, dobbiamo essere molto onesti, sono estremamente migliorate. Anche per esempio io ho un'amica cara che si occupa di utilizzare i cani all'interno del film. Il cane Rex penso che sia uno strafighettone, avrà una suite d'albergo, figuriamoci. Beh, anche quelli più meno famosi di Rex, voglio dire. Però cioè magari il Tintin era sfigato ai suoi tempi, che non ci si faccia caso, ma il cane Rex ormai. No, diciamo che oggi c'è questa attenzione maggiore verso gli animali. Sicuramente noi riteniamo che comunque l'utilizzo dell'animale, cioè la filosofia è un po' la stessa che ci ha portato, adesso non vorrei tornare su un vecchio argomento, ma che ci ha portato sempre a gennaio a chiedere alle famiglie italiane di non far vedere Peppa Pig ai bambini, cioè nel senso voi avete fatto la campagna per Peppa Pig, vero? Sì, non solo questa ma anche su Cappuccetto Rosso. Ma perché Peppa Pig lo capisco, che il maiale in realtà a gennaio si fa in porchetta e ci si fanno i prosciutti, è giusto che i bambini sappiano, ma invece per il Cappuccetto Rosso qual era il problema? No, il problema è il lupo cattivo. Ah, che si apriva la pancia del lupo. Esatto, ma a parte questo, tra l'altro faremo... Ma magari un epidurale oggi, dovrebbe cambiare la favola. Si fa un epidurale, si fa un cesareo e viene fuori tutto. No, vabbè, adesso battute a parte. Volevo dire, il filo conduttore di tutta questa vicenda era molto semplice, cioè noi riteniamo che l'utilizzo errato degli animali per far vedere degli animali che stanno bene, cioè che una gallina sia un robot, che sia una gallina vera o che sia una gallina ipnotizzata, cioè il problema di fondo è sempre lo stesso, cioè noi diciamo attenzione perché il far vedere che gli animali stanno bene oggi è pericoloso, oppure il far vedere che gli animali sono troppo cattivi, tra virgolette, è pericoloso. È chiaro che sono i nostri sono degli attacchi simbolici, tra virgolette, questa volta abbiamo toppato, perlomeno io ho toppato, me ne assumo la responsabilità, perché ho scritto davvero quella che è una stupidaggine. Ma chi è che non fa una cazzata nella vita? Fermo un attimo, Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, stavo per intervenire su una cosa, però penso possa intervenire anche su un'altra. Sì. Praticamente c'è il discorso che è inutile fare discorsi che si evita Peppa Pig oppure si evita Cappuccetto Rosso. Dovrebbe evitare anche Madagascar, i cartoni animati, perché sono a favore sempre. Beh, anche animati, Topolino, scusi, metta un topo lei dei pantaloncini da scemo rossi con i bottoni. Esatto, oppure Topolino, ma qualsiasi, Dumbo è un elefante da circo che gli piace stare al circo. Quindi abolire l'animale dai cartoni animati e dalle favole? Sento come ne parla questo il signor Lorenzo. Ah, lei lo dice in maniera ironica? Vabbè, mi sembra una proposta. Sì, perché insomma... Sentiamo però Graziano. Graziano che si occupa di galline. Mi sembra giusto la proposta. Graziano. Salve. Ho voluto chiamare proprio perché mi ha stupito la cosa della gallina di Van Deras che... Ma lei se ne intende di galline? Svelto che in sigla. Io me ne intendo di galline perché ce l'ho una squadra e ho messo a lavorare. E che gli fa fare? Ti fa fare un po' l'agricoltore. Ah vabbè, cioè, lei è un allevatore di galline, ha 100 galline e le sue stanno bene perché vivono allo stato brado e quindi le fanno l'ovetto razzolando. Grazie, sono contento, siamo felici tutti, anche la gallina.